L'alba. Siamo tutti alla stazione. Stiamo partendo. Siamo pronti per andare a Palermo. Ci aspettano laggiù. Problemi vecchi, rancori mai passati. Fuori fa freddo, c'è nebbia dappertutto. Siamo pigiati nell'atrio ad aspettare. La Polfer sta tranquilla, se la gode. Ci hanno marchiato tutti coi biglietti nominali, tutti schedati e poi catalogati. Pensano, sì, chi cazzo se ne frega, tanto non sono cazzi nostri, ma di qualcun altro. È appena l'alba, ma la gente continua ad affluire. Spuntano fuori che sembrano fantasmi. Vedi le ombre, tutte mezze storte. Hanno dormito un paio d'ore, oppure niente. Arriva Falco col giacchetto verde e con la stella rossa sul giacchetto. Arriva il Pulce, arriva lo Sparviero, arriva il Picchio insieme a suo fratello. Sono già stati entrambi al minorile. Hanno rubato una volante della Pula e poi l'hanno inseguiti, non si sono fermati. E poi alla fine gli hanno dato fuoco. Gente così, gente fatta in questo modo, del resto il picchio è sempre stato fuori, ma soprattutto poi non ha capito che queste cose sono passate, è finito il tempo dei pirati, le cose non sono più così. Abbiamo fatto in modo che quello scontro fosse uno scontro di altro livello, abbiamo trasportato quel conflitto su un'altra scala, su un piano diverso, però c'è gente che non l'ha capito, che è rimasta indietro, legata a questa mentalità che è quella di chi ci ha preceduto, accumulare merda tutta la settimana e poi sfogarsi la domenica allo stadio. E con chi è rimasto lì ci fai fatica, ci devi lavorare, gli devi spiegare la questione e allora lo devi contenere. Insomma, il picchio è un po' fatto così. Aveva già rubato un'ambulanza. Ed una volta perfino un treno intero. Questa è roba da non crederci, davvero. Allora, tutti i giorni il picchio va alla stazione perché doveva fare il pendolare, tutti i giorni a parlare con il macchinista e gli chiede: cos'è questo? Cos'è quello? E un po' per volta si fa spiegare tutto. Così, un bel giorno, di nascosto, va alla stazione, monta su una locomotiva, accende e parte. Loro all'inizio non se ne sono accorti, l'hanno scoperto 3 stazioni dopo. Hanno bloccato tutti i treni della zona, hanno staccato la corrente dai binari, sono saliti in 25 poliziotti e lui, ciuff, ciuff, ciuff, lui continuava a suonare la sirena. L'hanno fermato che suonava la sirena, ciuff, ciuff, ciuff, l'hanno fermato che suonava la sirena, ciuff, ciuff, ciuff, ciuff, ciuff, ciuff, ciuff, ciuff, ciuff, ciuff. Intanto il treno parte per Civitavecchia. Bisogna andare a prendere la nave, che lì a Palermo ci aspettano i furiosi. Problemi vecchi, rancori mai passati. Nel viaggio in treno non succede niente. Sono tutti quanti piegati sui sedili. Qualcuno dorme, qualcuno sta piegato e basta. Nel viaggio in treno non succede niente. Poi il treno arriva, scendiamo tutti, c'è il sole, la giornata è bella. E appena scendiamo, parte il primo coro. Ci infiliamo nel sottopassaggio, a metà strada ci sono i finanzieri e subito succede un gran casino. I cani vanno addosso a chi c'è il fumo, i finanzieri li vogliono fermare per perquisirli, per vedere che cosa c'hanno. Allora io e Falco cominciamo a urlare, a dire a voce alta: guardate che bel cane, c'è Fuffi, forza Fuffi, vieni qui da me. Quello è il segnale, la gente capisce, si mettono tutti ad urlare contro il cane si impaurisce, succede un gran casino, i finanzieri non sanno cosa fare, però vogliono portare via me e Falco, dicono il cane è un pubblico ufficiale, vogliono farci la denuncia per oltraggio, ma la gente si è rotta i coglioni e praticamente li abbiamo circondati e loro lì si sono presi la paura, si sono fatti tutti accomodanti, dicono... No, dai, cosa vi agitate? Guardate che noi siamo come voi. Io c'ho parenti nella città vostra. Insomma, le solite cazzate, quelle di quando se la fanno sotto. Poi, a un certo punto, la folla incomincia ad urlare e c'è un commissario che sembra Zenigata. E tutti: Zenigata, facci andare! Ma Zenigata perde la pazienza, prende il megafono da uno di noi e urla: forza, entrate dentro, non voglio che succedano casini. La gente insiste: Zenigata, facci andare, ci sei il diritto di andare fino a un bar. Ma Zenigata gli girano le palle e urla nel megafono ancora più forte: forza, entrate dentro, non voglio che succedano casini, entrate dentro o ci incazziamo noi. La gente insiste: Zenigata, facci andare! Insomma, non se ne viene fuori. Così, mentre continuano a trattare, io, Falco e altri, facciamo il giro largo. Nessuno se ne accorge e siamo liberi di andare. Però in realtà noi non si voleva fare niente di particolare. Andare in un bar e prendersi un panino. Così andiamo nel primo che si incontra. Naturalmente, ci sono dei palermitani, rimangono di sasso, non sanno cosa fare. Ci sono vecchi e una famiglia coi bambini. Ci fissano le sciarpe senza dire niente. Sembra di stare in un film del Far West. C'è quel silenzio prima del duello. Ma noi non ci avevamo fatto caso, noi eravamo ancora stravolti per il viaggio. E nessuno ci aveva voglia di menarla. Così tiro fuori i soldi e chiede un panino, però... Ad un certo punto la porta si riapre ed entrano tre con le bandiere rosa nere. Sono tifosi loro, hanno la faccia da giovani impiegati, ci vedono e fanno per uscire. Si accorgono però che ormai è troppo tardi. Farebbero la figura dei conigli e poi in fondo sono a casa loro. Ma noi non ci avevamo voglia nemmeno di menarla, noi stavamo per uscire fuori per ritornare all'entrata dello stadio, ma poi gli ha visti il picchio, già alterato, e comincia a fargli: voi cosa volete? Perché siete venuti qui allo stadio e non siete rimasti a casa vostra, lassù in montagna, a guardare le bestie nella stalla? Adesso, quando tornate là, non ne trovate più nessuna da incularvi. Ma questi qui non dicevano niente. Facevano finta di stare allo scherzo. Soltanto uno stava serio e guardava il picchio fisso dritto negli occhi. E il picchio ha pensato che lo facesse per sfidarlo. Così comincia a fargli proprio a questo: com'è? Che fai senza la pecora stanotte? Ma questo qui niente. Fermo, immobile. Finché il barista gli ha detto: sodomuto, per questo fa così. E il picchio si è incazzato col barista, gli fa: chi cazzo sei per trattarmi in questo modo? E il barista ha fatto per andargli conto, è uscito con una bottiglia che aveva in mano, e noi abbiamo preso il picchio per portarlo via fuori di peso, perché era chiaro che non ci conveniva, che era una stronzata. Noi eravamo appena una decina fuori, un esercito di poliziotti. Così, mentre prendiamo il picchio, prima che finisca in parapiglia, lui comincia a scalciare dappertutto e manda in frantumi la vetrina. E appena usciamo fuori, ecco la pulla che ci corre incontro, di corsa, con Zenigata in testa, è diventato viola in faccia e urla: cosa cazzo c'è? Mi niente di grave. Solo un incidente. E anche quelli che stanno al bar cercano di abbozzare, ma Zenigata piano piano si rilassa. Il picchio però continua da di fuori, gli fa: che cazzo sei, Zenigata di merda? E i celerini stanno per portarlo via. Il picchio si gonfia tutto, è diventato un mostro. Devi morire, Zenigata di merda! Allora Zenigata prende il picchio per un braccio e gli fa: come ti chiami, caro mio? E il picchio: si chiama Picchio. Allora Zenigata dice a Celerini: non mi toccate il picchio. Il picchio è amico mio. Lo porto via con me così si calma un po'. E poi alla fine della partita ve lo rendo. Ma la partita non gliela faccio vedere. Lo porto con me in questura e ci prendiamo un bel caffè. Io gli faccio: ma dai, lo vedi com'è conciato? È un ragazzino. L'hanno portato via verso i blindati. Così torno all'entrata dello stadio. Ritrovo un'altra volta Zenigata. Dai, Zenigata, ridacci il pi. Loro sono tutti lì. Sono venuti tutti ad aspettarci. Problemi vecchi, rancori mai passati. Appena entriamo ci fanno i cori contro. Ma noi eravamo ancora tutti stanchi, sporchi. E nessuno c'aveva voglia di menarla. Così ce ne siamo per un po' tranquilli. In silenzio. E questa cosa gli fa girare il cazzo. E dopo partono i nostri di cori. Poi ci siamo anche girati tutti insieme, te vedevi 300 culi bianchi sbattuti in faccia ai palermitani. Comunque, una cosa senza odio, una presa per il culo, questo sì, ma... ma poi, di colpo, tirano fuori uno striscione gigantesco. C'è scritto: crepa, bastardo comunista. Così di colpo sale la tensione. Poi a un certo punto noi facciamo gol e restiamo in vantaggio tutta la partita. E allora cominciamo a urlargli: Serie B, Serie B, Serie B. Allora, dalla gradinata accanto, la gente ha cominciato a tirarci addosso di tutto: sassi, cuscini, scarpe, monetine, tutto quello che ci potevano tirare. Ma il bello è che la polizia che stava lì gli dava ragione, li lasciava fare. Noi dirgli: ma che cazzo fate, lo vedete che ci tirano addosso la roba? Allora dirci: hanno ragione, fanno bene, avete urlato Serie B, questa è un'offesa. Così a quel punto ci incazziamo noi, abbiamo fatto il panico, il casino, sono volati bastoni, torce e razzi, ci siamo messi a tirare i sedili. Io ero lì appoggiato su una ringhiera, mi sento prendere sul collo con un sasso, allora guardo giù. C'è una famiglia intera con i bambini, perfino con la nonna, stavano tutti lì con i sassi in mano. Vedo volare le piastrelle del bagno, il cigno le ha staccate con il coltello, una per una via dal gabinetto. Erano bianche con i fiori sopra, sembra di stare al carnevale di Viareggio, però se ti prendevano nella testa vedrai che ti facevano del male. Qualcuno ha anche trovato un tubo di 6 metri per assaltare la parete divisoria. E come sempre poi è andata a finire così, che si è visto soltanto quello in TV, si vede la gente caricare quella rete e poi il casino del fumo tutto intorno. Ma poi arriva la polizia e fanno una carica pesante con gli scudi. Ci fanno arretrare di parecchio, così la cosa sta finendo lì. E anch'io comincio ad allontanarmi. Vedo soltanto il Nibbio che è rimasto fermo. Un poliziotto l'ha preso per un braccio e lo rifila di manganellate, ma il Nibbio non sente niente. Si sfila la cinghia e gli tira due fibbiate, qui, sul collo. Lo lascia a terra e torna verso noi. Però la cosa sta finendo lì, anche perché la partita era finita. E lentamente la situazione si stava calmando. E la gente stava uscendo fuori. È ritornata Zenigata con i suoi e comincia a dire: che bisognava aspettare ancora perché là fuori la gente aspettava e bisognava evitare ancora tafferugli. Siamo rimasti soli nello stadio. Fuori un casino continuo di sirene. Ci tengono rinchiusi per più di un'ora. Fumo, sirene. E io mi butto lì, su una ringhiera spezzata, lì alla cima della curva, piena di pezzi di tutto, giù per terra, che sembra di stare dentro un circo. Ma quando lo spettacolo è finito, e intanto, mentre stiamo ad aspettare, compare tra le nuvole la luna. Ci siamo accorti che nella curva loro era rimasto uno striscione. È rimasto appeso alla ringhiera. E sopra c'era scritto grandissimo: i furiosi. Forse lo lasciano sempre appeso alla ringhiera, o forse l'avevano lasciato lì per tornare a prenderlo più tardi. Insomma, io, Falco e altri vediamo lo striscione e Falco dice ai poliziotti: vada al cesso! E invece è andato lì, dritto, nella curva loro, lì dove c'è lo striscione. L'ha preso, l'ha rotolato e l'ha riposto in un borsone. E poi sono andato anch'io e siamo tornati dai nostri e la polizia non se ne è accorta proprio. E alla fine ci fanno uscire dallo stadio e un'altra volta caricati sopra i pullman. Appena usciamo troviamo blindati, poi i nostri pullman, poi blindati, blindati, blindati, blindati e poi 30 macchine di palermitani che ci inseguivano imbelviti. E anche stavolta non siamo passati per il centro, no. Siamo passati per un quartiere popolare, tutte le luci accese alle finestre, pieno di gente, famiglie intere con i bambini. Tiravano di tutto, vasi di fiori, bottiglie, spazzatura, tutto quello che potevano tirare. Appena un po' più là c'era un cantiere. Abbiamo imposto all'autista di fermarsi e siamo scesi per prendere pancali, spranghe e pezzi di cemento. Ma si è fermata anche la polizia e lì non ci capivi più una mazza. I tafferugli con la polizia e tutto quello che pioveva giù dall'alto. Ma ormai non ci potevi contenere, abbiamo sfondato i cordoni protettivi, rincorso gente fin dentro i portoni, sono i momenti quando non connetti più e in quei momenti vale veramente di tutto, massacri tutto quello che trovi a tiro. Ma intanto ecco venire ancora poliziotti, ne viene un sacco in abito borghese, sembrano usciti da Miami Vice, capelli lunghi, abbronzati, orecchino, pistola in mano e nell'altra il manganello, figoni che ti inseguono fin sopra e massacrano la gente sui sedili senza nessun interesse per la dinamica dei fatti, senza capire nemmeno com'è andata. Così ci fanno risalire sopra. Il pullman riparte un'altra volta verso il porto, ma le finestre erano già tutte sfondate. Ai vetri la gente, le finestre la gente inferocita, i vasi di fiori, bottiglie, spazzatura. E il pullman si ferma un'altra volta e noi un'altra volta giù dal pullman. E la polizia che ci respinge a forza sopra e per parecchio si va avanti in questo modo, su e giù, continuamente. Intanto, quei coglioni dei furiosi sono là, ad aspettarci in centro, con le mazze in mano, Sono lì fermi ad aspettarci. Sono lì fermi ad aspettarci per fare la guerra. Ma cosa cazzo ci aspettano a fare? Lo sanno che dal centro non si passa mai. Che fanno sempre fare il giro largo. E poi alla fine, arriviamo al porto. Sembra di stare per le strade di Beirut. Pareti di transenne e di blindati. Appena scendiamo è una pioggia di sassi. I poliziotti si sono messi in mezzo, non ce la fanno. Gli arriva un mucchio di sassate. Si sente questa pioggia cadere sugli scudi. Poi, finalmente, ci fanno salire sopra la nave. Saliamo tutti e andiamo sul ponte di poppa. Da lì si vede Palermo, la città. Tutta illuminata. Le case del centro e le piccole strade che corrono giù fin sul lungomare. Sono piene di gruppi di loro tifosi che corrono giù con i bastoni, con il volto coperto, per sfondare i cordoni protettivi. Ma la polizia resiste compatta, sono mazzate da entrambe le parti. E il fumo dei lacrimogeni sale, sale, e prende la gola perfino noi sopra la nave. E poi, finalmente, la nave si stacca. E allora noi spariamo un razzo. Un razzo rosso nel cielo scuro. E poi di colpo tiriamo fuori lo striscione. Quello di loro, quello con la scritta furiosi, lo apriamo proprio lì, sul culo di nave, perché da giù lo vedano bene, perché si legga bene la scritta. Ed ecco che mentre la nave se ne va via e lentamente se ne esce verso il largo, un urlo bestiale sale dal porto, un urlo che sale dalla città mentre la nave se ne va via. E allora noi ci mettiamo a cantare. Bravo il batterista, vero? Picchia. No? Tema. La prima volta che sono andato allo stadio. La prima volta che sono andato allo stadio... Beh, è stato un giorno che non avevo niente da fare. Cioè, uno mi ha detto, dai, vieni allo stadio. Io non facevo nulla. Ci sono andato. Sembrava come la prima volta che mi portò mio padre. C'era questo prato verde, questo spazio vuoto. E io mi sentivo strano. C'era qualcosa. Qualcosa che prima avevo perso. Qualcosa di più grande che mi conteneva. Qualcosa di più grande in cui ci stavo dentro. E così ci sono andato un sacco di volte. E anche la partita mi sembrava bella. Che quando è cominciata noi perdevamo, ma poi alla fine abbiamo vinto noi. E c'era tutto quel movimento, la gente che si alzava, che cantava tutta insieme a squarciagola. E io pensavo, cioè, guarda un po' che modo bello, che bella festa, che modo bello di stare tutti qui insieme. Ma forse c'è qualcosa anche di più. C'è il fatto del tempo quotidiano. Ti impegni a fare delle cose tutti insieme. Magari magliette, adesivi, da vendere poi dentro la curva per qualcuno che ha il problema di pagarsi il mutuo. sei parte di una comunità che ti dà modo di non sentirti solo, anche se intorno c'è la vita, che è una merda. E in questo modo ti passa la paura. È questo. È questo che vuol dire che sei un ultra. E poi c'è il giorno in cui succedono i casini. Te vorresti essere lì ad aiutare i tuoi e invece non ti fanno muovere di un passo. Devi star lì, sotto controllo. A impersonare il ruolo del cattivo, quello di cui il sistema ha gran bisogno per garantire posti di lavoro e far campare gli strilloni dei giornali. Ma dicono sempre le stesse cose. Sono le cose che scrivono gli strilloni. La stessa storia dei 100 teppisti che niente hanno a vedere con il calcio. Cioè ti creano il muro della gente contro per isolarti, farti essere solo, sgretolare il tifo organizzato mettendo conto tra loro le persone. Ti isolano. E io non capisco come dopo tanto tempo si possa continuare a vedere la cosa in questo modo. Cioè chiamare sempre, sempre, repressione in massa. E non capire che non è così, che non è questo, che c'è qualcosa d'altro. Invece chiamano sempre repressione in massa e poi stanno lì a godersi la domenica sportiva, sul divano, a casa. E poi ci siamo noi, non ci siete voi, non ci sono loro. Ci siamo noi a prenderci le mazzate di carabinieri e di poliziotti. E poi c'è anche il giorno in cui succede la violenza. Prima accadeva per altri motivi, prima la squadra perdeva, ti incazzavi e poi spaccavi tutto. Vabbè, oppure quelle storie di rivalità, campanilismi tra città diverse. Ma ora tutto questo è roba vecchia, nessuno si fa più male per questa roba qui. Ora succede che è tutto cambiato. Ora è il sistema che ti controlla passo per passo, che ti imprigiona scientificamente. E allora basta una scintilla e scoppia un incendio. E il passo è breve. Per trovarsi contro chi sta dall'altra parte. E poi c'è il fatto delle ideologie, il fatto di fare delle scelte. E tante curve ormai sono di destra, è dove i partiti ci hanno messo i soldi, per costruire il loro braccio armato e propinare una mentalità che poi alla lunga produce l'ignoranza, che poi produce la sopraffazione. E noi, che siamo una curva di sinistra, siamo contro l'uso delle armi, un codice non scritto fatto da noi. Ma c'è una cosa forse che è ancora più assurda, che trovi pure quelli di sinistra che dicono siamo di sinistra come voi, però gli scontri li vogliamo fare uguale. Cioè, il modo in cui succede la violenza è questo. C'è uno che ti vuole rompere le ossa, non hai scelta, li spacchi prima tu. Io più che violenza la chiamo resistenza, che poi comunque è una cosa che sta dappertutto. Tutto quanto quello che c'è al mondo, cioè non è una cosa che si è inventata noi, c'è di già, c'è ancora, c'è sempre. Il fatto è che succede sempre così, che chiamano violenza soltanto questo. Ma si può dire che la violenza è nelle cose, cioè la vita è violenza, normalmente, e questo è qualcosa che ci riguarda tutti quanti. Cioè trovare la giusta mediazione tra quello dentro e quello fuori e saper dire questa volta no oppure questa volta sì, in questo caso non posso fare altro. E allora arriva pure un senso di liberazione, che finalmente la furia che c'è dentro trova, cioè, questo perlomeno è quello che succede per me, trova, cioè, il canale, la strada per uscire, ed è una liberazione finalmente. E poi stai bene, ti sfoghi, ti liberi. Io non so da quanto tempo non stavo così bene. Thank you. Comunque, la storia di quello striscione non è che fosse finita così, no, perché i palermitani l'avevano denunciato. Erano andati a denunciare il furto. Cioè, questa è una cosa che non si fa mai. Cioè, non è che ti prendi una batosta e poi vai a piangere in questura. Così, un bel giorno, nella nostra sede, sono venuti quelli della Digos. Volevano fare la perquisizione, vedere se c'era lo striscione. E noi gli abbiamo detto, qui lo striscione non c'è, e se lo saranno mangiato i pescecani quando la nave se n'è andata all'arco. Però la cosa non finiva lì, perché i furiosi ce l'avevano con noi, ma anche noi saremmo incazzati con loro. Così un bel giorno che tornavamo dall'ultima trasferta di stagione e il treno andava in pantaloni corti, tutti estivi, e il treno andava in mezzo alla campagna, e Falco è lì che legge il giornale e a un certo punto mi fa: senti un po', venite palermitani con il traghetto, sono in trasferta da Palermo fino a Milano per la squadra che lotta, che cerca di restare in Serie A, e poi stessa cosa alla rovescia. Io sto guardando lì fuori dal finestrino e a un certo punto incrociamo un altro treno che sta venendo giù nell'altro senso. È pieno di bandiere rosanere, sono bandiere dei palermitani, che vedono le nostre appese alle carrozze, si urla da una parte e da quell'altra. I treni continuano a sfilare, poi si sente un fischio in aria. Hanno tirato il freno di emergenza e il loro treno si inchioda sul binario, il nostro ancora gli sfila davanti. Poi si sente un altro fischio ancora e subito si inchioda pure il nostro treno. Le loro ultime carrozze sono ferme davanti alle ultime carrozze ferme nostre. Hanno il vantaggio di scendere giù dal treno, sono saltati giù e hanno iniziato a bersagliare le carrozze, ed ecco che lì per i nostri è stata molto dura, non ci riusciva ad uscire, una grandine di vetri e sassi contro le porte del treno, per cui c'è stato un boato, e subito ecco che dal fondo del treno sono arrivati i rinforzi correndo, ci sono stati i primi corpo a corpo che subito sono stati violenti, per cui si sono prese le distanze, ma loro si trovavano in vantaggio, c'erano i sassi dalla loro parte, non si poteva che prenderli da terra, tirarglieli e raccoglierli e tirarglieli di nuovo, molti feriti dalla parte nostra. Penso all'inizio, tanto è la solita cazzata, sul treno c'è la polizia, ci fanno ripartire in un attimo, però mi avvio anch'io là sul fondo dove c'erano gli scontri, e quando arrivo vedo che il casino è grosso, erano scesi pure i poliziotti giù dal treno, e gli arrivava un mucchio di sassate, non si poteva andare avanti, allora siamo andati un po' più in là. C'era un campo pieno di bancali e abbiamo provato la strategia della testuggine. Ci siamo messi i bancali davanti e abbiamo provato ad avanzargli contro. Ma di bancali ce n'erano troppi pochi, si andava avanti e si tornava indietro, si andava avanti e si tornava indietro. Non c'era modo di arrivare a caricarli, per cui abbiamo preso le distanze e siamo corsi verso una casa dove con i sassi non potevano arrivare. Abbiamo preso zappe e badili e abbiamo corso verso quella casa là. Però loro hanno capito l'obiettivo e visto che la distanza era meno sono arrivati per primi. Però a quel punto c'è stata la svolta, perché lì il terreno era cambiato e loro non avevano più i sassi. E quelli che sono rimasti sul treno hanno capito che se vincevano i nostri nemici sarebbero arrivati fin su il treno, sopra il treno. E allora a quel punto la gente ha preso la paura, ha capito questa cosa e sono riscesi tutti in massa, 300 persone giù nel campo. E allora noi siamo partiti senza neanche metterci d'accordo, siamo partiti urlando, la terra smossa, il terreno franoso, così inciampando cadevano giù. Qualcuno è scappato fino al paese vicino e il loro capo urlava come un matto: «Cu scappa poi, si picchi immazzate, fimi, ristate, non vi nagire!» Ma noi abbiamo fatto la carica finale, sono scappati tutti, pure il capo! durante una pausa degli scontri. Ci venne incontro sul campo di patate una pulotta di sinistra, tranquilla, democratica, un po' scema, la classica pulotta di sinistra. E noi siamo tutti stanchi, sporchi, siamo coperti di terra fino agli occhi, stanchi, sudati. E lei ci viene incontro e comincia a fare: ragazzi, adesso basta così, lo scriverò nella mia relazione che avete prevalso nella lotta. Adesso però, ragazzi, basta così, E allora noi decidiamo di risalire. Eravamo tutti stanchi, sporchi. Però lì siamo un'altra volta bloccati sul campo. E anche questa volta è una pioggia di sassi. Vedo soltanto il Nibio che partiva. Era andato lì nel mezzo con una mazza che va in mano. Era pieno di celerini. Uno di loro lo vede arrivare, gli spacca il manganello in testa. Gli apre il labbro, il sangue schizza via, ma il Nibio non ha sentito niente. Gli spacca la mazza in testa. E questo qui va giù di botto come una pera cotta, non c'aveva nemmeno il casco. E poi esce dagli alberi una massa scura. Sono arrivati i rinforzi delle città vicine, sono i blindati, le camionette, i carabinieri, i poliziotti. E davanti a tutti sbuca un cicciottello. Corre mezzo nudo, grida qualcosa, ha un bastone in mano, ma non si capisce cosa fa. Sembrava uno di loro che scappava, e poi dietro i carabinieri che lo inseguono. Ma poi i carabinieri l'hanno preso giù, botte da orbi con i manganelli, mentre lo pestano, continua a gridare. Allora a quel punto si è capito cosa stava gridando, stava urlando: sono un poliziotto! E a quel punto hanno capito pure loro, ma ormai il danno era già fatto. E l'hanno lasciato lì, per terra, tutto pesto. E allora ci siamo andati pure noi. Bah! Sei un poliziotto. E gli abbiamo dato un po' di sculaccioni. E poi siamo tornati verso i nostri. Eravamo tutti stanchi, sporchi. E così abbiamo deciso di andare fuori dai coglioni, non ce la facevamo veramente più. E abbiamo iniziato a risalire. Ma proprio mentre stiamo risalendo, da dietro si sente un'altra volta urlare: vedo una schiera di palermitani partire verso un gruppettino nostro che è rimasto appena un po' più indietro. Non ce la facevamo più, ci avevano rotto davvero i coglioni. Siamo riscesi tutti in massa, 300 persone giù nel campo. Loro sono scappati tutti, senza voltarsi scappavano via, qualcuno fino al paese vicino. E noi sullo slancio eravamo furiosi, siamo andati sopra il loro treno, era sguarnito, ma c'era di tutto: bandiere, sciarpe, zaini, giubbotti. Le abbiamo buttati giù dai finestrini, i nostri ragazzi sui binari hanno preso le loro bandiere per sventolarle sul loro muso, e tutti loro stavano laggiù in fondo con la bava alla bocca. E noi a quel punto abbiamo proseguito sulle carrozze, finché per il panico un poliziotto a metà treno ha sparato in aria, dal finestrino, per fermarci. Ma ormai noi a quel punto eravamo contenti. E il nostro treno è ripartito cantando. E subito il Picchio comincia a dire: si deve dire che abbiamo vinto noi, perché siamo saliti sopra il loro treno, abbiamo fatto l'arrimbaggio del loro treno secondo la legge dei pirati, abbiamo preso le loro bandiere e in questo modo abbiamo vinto noi. E io gli ho detto: a me non mi sembra proprio, non direi proprio che abbiamo vinto noi, perché se c'era da vincere qualcosa, l'abbiamo perso da più di 30 anni. Se c'era da vincere qualcosa, a me sembra che abbia vinto qualcun altro, o forse qualcos'altro, più grande di noi. E proprio in quel momento la porta si riapre, entra la pulotta, quella di prima, tranquilla, democratica, e comincia a dire: siete stati proprio dei figli di puttana, però, e gli avete fatto un culo, così.